In un piatto poco cupo, poco pepe, pisto, cape. 33 sono i cretini che trottando entrano a Trento. Tre dragoni graduati non gradiscono granite. Troppa trippa per la truppa, meglio 30 trote trite. C'è il celebre arcivescovo di Costantinopoli che si vuole disarcivescovizzare. Per giocare con quella palla, sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Le parole sono solo imbrogli. Togli e metti, metti e togli, quanti errori, quanti sbagli. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Pepe dà la pappa al pupo, pupo dà la pappa a Pepe. Pupo, pappa, poca pappa, troppa pappa, pappa, Pepe. Leva, l'uva, leva, Eva, l'uova, leva, dava. Quindi Eva è priva d'uva, mentre Ava è priva d'uova. In tanta raggi, vescovo di Costantinopoli, si vuol sempre disarci, vescovizzare. A pelle figlio d'Apollo, fa una palla di pelle di pollo. E i pesci vengono a galla per giocare con quella palla. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Ciao a tutti, benvenuti alla nostra puntata numero meno 4 del nostro programma Sciogli Lingua. Siamo qua Cintia, Alettina, Ferdinando, Charles, Juan Il che è mancato, alias il Topolino. Salutiamo anche i nostri compagni, sì, che non Evelyn e Ezequiel, no? Che sì, non sì. Ci sono per ora, ma forse arrivano più tardi, eh? Forse sì, sì. E forse non arriva. E forse anche arriva più tardi Jonathan, perché sì, sì, tante persone non arriva molte tardi. Più tardi. Stiamo aspettando per i Plian. Sì. Abbiamo il diploma da consegnare, ma non è arrivato ancora. Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando anche una notizia. Sì. Che viene da lontano, da mi lontano, pare, arriva. Molto lontano. Di Yahoo. Ah, di Yahoo Notizie. Ecco. Di cosa di tratta? Non so, sono Charles. Una cosa che è successo che... il 3 febbraio del 2011. Io non lo so. Il titolo dice l'uomo più sfortunato del mondo. Colpito da un fulmine mentre parlava al telefono. E si è visto per 8.298 persone nel mondo. Ah, se... sono state quelle che hanno letto la notizia. Sembra che per Sean White Hagan, il 47 americano che si è autodefinito l'uomo più sfortunato del mondo, le sciagure non finiscano mai. Qual è stata la sua ultima disavventura? Questa volta è stato colpito da un fulmine mentre era a casa e parlava al telefono. Hagan sostiene che l'incidente sarebbe accaduto martedì 25 gennaio, di sera, nella sua abitazione di Tampa, in Florida, quando fuori infuriava una tempesta. L'ultima cosa che ricorda è di essersi appoggiato a un lavandino di metallo mentre era al telefono e di aver sentito una tremenda esplosione. Vabbè, allora lui parla al telefono e non so se vi capita normalmente di appoggiarvi su un lavandino di metallo. Cioè più che sfortunato, diciamo che anche un po' scemo. Un pochino. Ma forse aveva il telefono che non è attaccato. Cioè, è attaccato la corrente, forse. Forse sì. Allora, di quanto è successo dopo dice non ricorda più nulla. Il giorno successivo lo sventurato si è risvegliato in ospedale e si è trovato senza una scarpa e con un grosso buco sul calzino. Allora non è stato così grave, no? No. Perché tipico. Succede sempre. Ma ti prende un fulmine e quando ti risvegli non hai una scarpa in meno e un buco sul calzino. E ti risvegli, c'è sempre un buco. Non è così grave, no? scritto che Johnny. Dopo aver sentito la sua versione dei fatti, gli infermieri che gli erano intorno al momento del risveglio si sono mostrati piuttosto scettici, chiedendosi se davvero Adam avesse subito un incidente del genere. Tuttavia, due studiosi di fulmini hanno ammesso che questo tipo di calamità, mentre si è il telefono, può effettivamente capitare. Allora, hanno confermato che dobbiamo parlare per telefonia, di cellulare, no? Sì, e dopo, è vero questo? Che si tratti o meno di verità, John Hagan non è nuovo a questo tipo di sventure. La sua straordinaria sfortuna l'ha fatto diventare famoso, quasi una celebrità. Stando alle sue affermazioni, nel 2007 è stato vittima di una rapina mentre era alla guida del suo taxi. Un malvivente lo ha derubato minacciandolo con una pistola e poi lo ha chiuso nel bagaglio dell'auto. Incredibile. Che e nel 2008 la cattiva sorte si è invece abbattuta su di lui sotto forma di un coltello da macellaio. Ha detto infatti di essere stato pugnalato al petto e di aver guidato ferito e sanguinante fino a una caserma dei vigili del fuoco. Ma questo uomo non muore. E la disgrazia più assurda è stata che ha affermato che due serpenti lo hanno morso contemporaneamente, cioè allo stesso tempo. Ma avevano fame. No. Un'affermazione quest'ultima ha rilasciato. Ma che sfortuna, molta fortuna. Sì, per aver. Sì. Sì. Sopravvive dopo tutto questo. Sì. Più che sfortunato, è fortunato. È fortunato, no? Sì. Se a qualche di noi ci passa qualcosa. Anche di quello, sì. Non avrebbe. Non sopravvive neanche a una, no? Di queste disgrazie. Dice che una conferenza stampa ha fatto questa affermazione dal suo letto di ospedale, quindi lui ha chiamato una conferenza stampa per dire: sono stato effettivamente morso da due serpenti contemporaneamente. Quindi questo ha un po' e la... le serpenti cosa hanno detto? No, non si sa. Serpentino. Non hanno voluto parlare. Gli esperti di rettili la mettono seriamente in dubbio. È difficile che due serpenti possano mordere nello stesso momento una persona, e in questo caso comunque che John Wade Hagan ha dichiarato ai media e idealmente al mondo intero che era probabilmente la persona più iellata del pianeta, il più disgraziato del pianeta. Ma forse le serpenti sono messi d'accordo per attaccare. Hanno contato uno, due, tre, adesso! Beh, adesso è famoso. Lui ha istruito le serpenti. Sì, forse. Sì. Sicuramente. Sì, perché solo a lui capita questo. Nonostante molte persone si siano chieste se gli incidenti patiti da questo uomo siano autentici. Certamente. In particolare quello dei due serpenti. Quell'ultimo del fulmine. Lui continua a confermare con forza le sue tragiche esperienze, che ci ha ipotizzato che Hagan sia un mitomane in cerca di attenzione. Altri invece pensano che potrebbe essere addirittura una masochista sui generi. Una persona che ama farsi del male nei modi più strani per poter farsi ricoverare in ospedale e ricevere farmaci per alleviare il dolore. Non mi interessa ciò che pensa la gente, ha detto Hagan. Un giorno di questi andrò a fare un test della verità oppure un esame antidroga per dimostrare che non dico bugie. Durante la sua ultima disventura ha avuto anche una testimone di accezione. sua figlia Misty è stata sua figlia Misty è stata lei a realizzarlo da terra quando si trovava a casa perché colpito forse da un fulmine caduto dal cielo. Che sia davvero l'uomo più sfortunato del mondo? Forse stava parlando con Dio e Dio si è arrabbiato. Si è arrabbiato, stava pregando. Ma sì, è molto arrabbiato. Stava pregando. E la figlia? La figlia forse è abituata che succedano queste cose. Sì, è mio padre che è caduto. Doveva provare fortuna al casino questo. Al casino? Sì. Ma tu pensi, per me perde la casa? È la figlia. È la figlia. Ma niente, forse adesso ascoltiamo una canzone. Sì, faccia. Che ha a che fare. Riferimento, no, a qualche uomo, così. Che canzone può fare riferimento? Non lo so, non credo che sia. Sicuramente ascoltiamo la canzone e nella metà sì, si corta. Sì, non funziona la canzone. Vediamo cosa combina. Cosa c'è? Il fonico e la redazione del programma. In bocca al lupo al fonico. Suoi casini, roba che se non facevi il romantico, lei magari ti diceva facciamolo, ed invece sei rimasto fregato, da perché lo fai e disperato, hai comprato pure il cellulare, da tua madre tu ti fai chiamare, per far finta di essere uno importante, chiamo dopo, sono in mezzo alla gente, fingi di essere come Berlusconi, pieno di ragazze di milioni, fino a ieri eri come Bene, adesso continuando con la nostra programmazione, e grazie a un grande sforzo della nostra produzione, siamo riusciti ad avere qui all'uomo più sfortunato al mondo. Eccolo, benvenuto! John Hagan, benvenuto e grazie di essere qua con noi. Grazie, grazie. Avete avuto fortuna anche che parlo l'italiano, no? Sì, certo, certo. Siete fortunati. E ci dica, John, quando è cominciata la sua sfortuna? Beh, la mia sfortuna, ho sentito che voi avete detto che nel 2007 ho avuto primo fatto disgraziato, diciamo, no? Invece io da quando sono nato, no? Questo me l'ha detto i miei genitori, no? Dai. In realtà i miei genitori me l'hanno scritto in una lettera, perché loro sono morti, no? Quando io ero un anno, e mi hanno scritto in una lettera: tu sarai molto sfortunato. Così? Sì, perché tu già da quando sei nato sei caduto dalle mani del medico, insomma, no? Nel momento del parto, quindi. Mamma. Ma sono sopravvissuto sempre, no? Sì, sì, abbiamo visto. Ma cosa ha sentito quando ha letto questa lettera? Bene, niente, è una lettera che mi ha letto, me la doveva leggere mia nonna, no? Ma me l'ha letta un vicino. Non mi dica che anche è morta. No, no, era andata al supermercato, quindi non c'era. Ma è importante sapere questo, perché noi non conosciamo la vita di John Hagan, e così si capisce un po' anche. Sì, sì, sì, sì, infatti sono... Però in fondo sono particolare, no? Lei grazie sente questo, di essere certo, particolare? Certo. E gli fa piacere di essere. Eh sì, si sente, insomma, felice, essere di... speciali in questo mondo è sempre una cosa bella, no? Si sente? Avrà dei fans, forse, no? Sì, ci hanno detto che ha dei fans. Sì, è vero. Bene, ora... Come mai questa Cioè, su Facebook molte persone hanno dei fans, no? Quindi, beh, anch'io ce l'ho. Mi scrivono. Che cosa ti dicono? Interessanti. Attenzione, no? Attento. E le serve, fa attenzione lui o a volte? No, in realtà no, perché io sono stato sempre molto attento, una persona molto sveglia. Invece queste cose che mi sono capitate, come avete detto voi, sono cose che non si possono evitare, perché mai. E lei parla con i suoi fan, gli consiglia qualcosa? In realtà dei consigli. E sapete come sono le conversazioni queste di Facebook, sì, di Facebook, no? Sì. Non c'è granché da dire, no? Perché si può e rispondere, no? Sì. E quanti attenzione. Fans ne ha? E ormai sono circa 8.000. Mamma mia. E comunque negli Stati Uniti è pochissimo numero. Questo, no? Sì. Perché negli Stati Uniti si trovano persone per tutto. Ormai con 300 milioni di... Ma dei fan internazionali, diciamo, da altre parti del mondo? Probabilmente sì. E adesso avrà dall'Italia anche. Sì, tantissimo. Certo, bene, saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando, anche l'Uruguay, no? È vero, sì, abbiamo un collegamento speciale con l'Uruguay. Sì. E abbiamo letto che, abbiamo saputo che le persone dicono che lei sia un mitomane, che queste cose le faccia solo per... E cosa ne pensa di quelle persone? Bene, come di tutte le persone che diventano prima o poi... Invidiose, no? Cioè, persone che diventano famose per qualche motivo, e ci sono persone che vogliono essere famose, cioè vogliono cercare in ogni modo di diventare famose. Lei non lo fa, quello? No, io no. Anche se è vero che ho chiamato una conferenza stampa una volta, ma era un po' per proteggere anche la mia immagine, no? Vero, certo. E anche la sua figlia, o no? che... per proteggere lei. Sì. Sì. Cosa ne pensa lei? Come vive le sue sfortune? E niente, no. Lei è cresciuta accanto a me e anche grazie a questo, no? Perché io già da molto che mi faccio pagare per le interviste, voi avete pagato quanti soldi, ma ci sono mezzi di comunicazione dappertutto. Vive di questa. E io campo di questo. Ma la sua figlia, lei non ha moglie? O si è divorziata? O è morta? Mi scusa. Questo era un argomento di cui non volevo parlare. Pensa prima di parlare. Sì. Bene, io sono stato incinto. Dire, e come è possibile? Sono rimasto incinto, ma questo non l'ho fatto sapere. Adesso lo sa tutto il mondo. Mi Beh, se che voi avete tanti ascoltatori, forse sì, ma sì, sì, sono rimasto incinto. Niente, lei mi ha lasciato, non ha voluto riconoscere alla fine. Sì, bambina, la bambina, e niente. Wow, quindi la figlia la vedo commossa. Sì. La vedo commossa. Sono emozionata, sì. Sì. Beh, niente. Sono cose che capitano. Cose, ma quello non è stata una sfortuna, più una cosa incredibile, diciamo. Sapete, essere padri da soli non è mai bello. E madre allo stesso tempo. No? Poi tutta la gravidanza, più che padre e madre, non so, sì, come poi tutta la gravidanza, poi è stata una gravidanza complicata, no? Però beh, insomma, sono qui e la posso raccontare la storia, no? Che e sua figlia ha delle esperienze strane anche o no? Cioè lei soffre di questi tipo di cose? Non ha fatto sapere niente, quindi no? Però è poi molto protetta da me, no? Sono... E anche lei non sicuramente protegge. Non voglio che le capitino delle cose. E lei ha paura? Cosa ha paura di avere altre esperienze che non siano, di cui non possa sopravvivere? Praticamente non, cioè non esce di casa, quindi c'è poco che le possa capitare, no? No, ma lei... Lei non è mai andata a scuola, per esempio, no? No, ma tu hai paura di avere altro tipo di esperienze che... Sì, no. Io, sì, insomma, non so se ho paura, perché se sopravvivo è perché già continuo ad avere questa condizione di persona iellata, però che in fondo... Sei tranquillo, quindi se capita e basta. Capita, insomma, si può evitare. E poi questa esperienza con i serpenti? Bella esperienza. Carine, insomma, i serpenti. Sì, sì, sì, molto carini. Poi, sei diventato amico delle serpenti. Abbiamo fatto un po' amicizia alla fine e ho una fotografia su Facebook. Di un momento non proprio quel momento, perché neanche io li ho visti, no? Però poi mi sono fatto fare una bella foto. Bene, Sean, ti ringraziamo tantissimo. Sì, davvero. È stato un piacere per me, poi come sempre in fondo è il mio lavoro, no? E anche fare. Ci ha detto delle cose molto importanti, sì, sì. Ci hanno fatto capire anche la sua vita. Sì, e, che si, e si capisce molto anche della condizione umana grazie a queste cose, no? Molto profondo. Molto profondo. Grazie. Grazie a lei, grazie. In bocca al lupo. Beh, crepi. Adesso, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, abbiamo alcune superstizioni, alcune delle più famose e più conosciute, per condividere con voi e possiamo parlarne di alcune. Ecco, perché a proposito di fortuna e sfortuna, no? Che è stato un po' l'argomento, no? Che ha attraversato tutta la puntata di oggi. E ci sono dei modi di un po' di prevenire, no? Che popolarmente si pensa che possano prevenire la cattiva fortuna, no? E infatti sono cose relative alla vita quotidiana, no? Sì. Per esempio i capelli, che si dice che se per esempio si trova un capello sulla spalla, preannuncia l'arrivo di una lettera con mala fortuna, diciamo. Cattiva fortuna. Però un capello sulla spalla può essere anche un annuncio, preannuncio di calvizie. Dell'arrivo della calvizie, no? Sì, pure. Anche, no? E poi i fiammiferi. Che se si usano in tre, se si usa uno stesso fiammifero in tre, anche quello porta sfortuna. Come si farebbe? Anch'io mi domando, sai, quello. Perché il fiammifero si spegne subito, no? E si butta. Però tre persone, se vogliamo, che ne so, accendere una sigaretta. Tre sigarette o tre candele di tre persone diverse. Subito con lo stesso fiammifero, no, questo porta sfortuna. Quello porta sfortuna, non lo fa. È fortunato che riesce a farlo, no? Sì. Però beh, sembra che porti sfortuna. Dopo le forbici, che se cadono per terra, si deve prima raccogliere, si deve passare un piede sopra l'altro per annullare il cattivo presagio. Si deve fare tutto un procedimento prima, cioè dopo, per non avere cattiva fortuna. E invece con le forbici, se sono appese al muro, portano buona fortuna. Sì. Un'altra, un consiglio che si dà è non baciare mai un neonato sul collo, perché altrimenti perde il sonno. Quello è un dato importante, diciamo, per le mamme, le neomamme. Diciamo. Le neomamme, anche sì. Abbiamo una del letto. Sì? Che può servire anche a quelli che sono un po' pigri e non vogliono mai fare le lenzuole. Perché si dice che... Ah, fare il letto. Sì. Che non si deve mai fare il letto in tre. Ah, bene, però è per quelli che lavorano insieme, perché sennò da soli non è una giustificazione, no? Perché in tre è il problema. E sembra che se quello più giovane, no? Di quelli che rifanno il letto insieme, se sono in tre, quello più giovane muore. Ah, sì. Ma anche i più vecchi moriranno, no? Prima o poi. Sì, ma cioè, almeno muoiono in letto, in modo comodo. Ah, muoiono in modo comodo. Sono già lì. Sì. Sul letto. Giaciglio di morte, diciamo. Ok. Vabbè, abbiamo pensato che forse sono i paesini, no? I piccoli paesi che si trovano in tutta Italia, che hanno tante tradizioni, che mantengono ecco queste tradizioni, e che forse possiamo andare a chiedere e imparare un po' anche delle donne. Sì. E allora abbiamo una nostra collega Beatrice. Ciao Beatrice, dove sei? Raccontaci un po'. Ciao ragazzi, sono qui a Castronovo di Sant'Andrea ed è un po' altino, però ma un po' mi gira un po' la testa, ma sono ancora in piedi per fortuna. E sono qui con una signora che sta stendendo la biancheria proprio in questo momento. Buongiorno signora, come si chiama? Buongiorno signorina, io mi chiamo Petrona. Chi è lei? Io sono Beatrice, piacere della radio Scegli Lingua. Piacere. E volevamo sapere un po' se lei ci può dire quali sono le superstizioni, diciamo, più importanti per lei, più che la colpiscono di più? superstizioni qua ne abbiamo tante, ma una delle una superstizione molto importante, almeno nella mia famiglia, è quella di non aprire l'ombrello sotto il tetto. E come mai è successo qualcosa nella sua famiglia? In realtà sì, sì, è un po' triste, ma mia nonna è morta per aprire l'ombrello a casa. Morta, davvero? Sì, è morta. Ha aperto l'ombrello, la mia bisnonna le aveva detto non farlo, non farlo, ma lei l'ha fatto e appena l'ha aperto è morta, è caduta per terra, è poverina. Ma è morta per aprire l'ombrello? Sì, per aprirlo. Oh mio Dio, sì. Mi piace tanto, eh? Abbiamo una fotografia di lei sul muro. Mi emoziona molto. Mi piace davvero, signora. Un'altra superstizione? Dopo quella del gallo, che per noi il gallo è molto importante, per esempio, se canta prima di mezzanotte, annuncia, preannuncia, diciamo, cattivo tempo. E ci serve per sapere quando è la ora della terra. Ah, bello, ed è proprio così che succede. Sì, succede così. A volte non possiamo dormire perché ne abbiamo tanti galli. Stanno sempre cantando, a volte non sappiamo se cantano per il mal tempo o cosa. O cantano per cantare. Bene, grazie mille. Una domanda, sì. Mi stanno guardando dalla TV? No, questo soltanto è una radio, quindi ti ascolta soltanto. Non mi vedono? No. Peccato. Io ho dei parenti a Roma, sa? Beh, ma può salutarli anche se non la vedono. No, non mi vedono. No, non la vedono, ma sanno il suo nome, no? Petrona. Quindi può salutarli. Ciao mamma, ciao papà. Un saluto per loro e grazie. Cosa è quello che ha lì? Questo? Quella ah, questo è un microfono. Microfono. Mai visto? No, non ho mai visto. Beh, con questo ci sento. Bellina lei, eh? Grazie, la ringrazio tanto e che spero che abbia una buona giornata. Bocca al lupo, signorina. Sì, crepi. E qui abbiamo anche, ciao, buongiorno, signore, come si chiama? Un signore che sta lavorando la terra proprio. Buongiorno. Come sta, signore? Stanco lo vedo. Bene. Com'è il suo nome? Ernesto. Ernesto, piacere, signor Ernesto. Piacere. Bene, stiamo qui facendo delle domande sulle superstizioni. Cosa ne pensa lui? Ne ha delle superstizioni? Certo, io ho tante superstizioni, no? Tante, una che lo colpisca di più che sia, non so che... Qui colpiscono molti, tante volte lampi, no? Lampi che cadono al cielo, ah, no? Le lampi. Fulmini. Sì, ma dico, mi sono espressata male. Delle superstizioni, per esempio, che lui dica sono vere, che si compie quello che... Ma riguardo proprio i fulmini, no? Sì. Noi qui, quando ci sono i fulmini, noi quello che facciamo è staccare il computer dall'elettricità. Ma quello mi sa che non è una superstizione, è una cosa che facciamo per la propria sicurezza, mi sa, tutti lo facciamo. Ah, lo fa anche lei? Sì, anch'io lo faccio, certo, perché altrimenti non so, esplode il computer. Però questo è perché, certo, come tutte le altre superstizioni pure sono così. Ah, lui pensa che è una superstizione. Certo, poi succede quello che dice la superstizione. Sì, può accadere, sì. Bene. Questo stacca tutti i computer, tutti stacchiamo il computer. Ah, mi fa piacere. Bene, benissimo. Quindi consiglia anche alle persone di farlo. Sì, ci sono persone che stanno ascoltando in questo momento. Sì, tantissime persone, sì. Ma allora, sì, fate questo di staccare il computer. Ok, e un'altra superstizione? Forse... Bene, poi, non so, qualcosa che riguarda gli animali. Gli animali, sì, può essere anche. A volte, per esempio, quando i cavalli non vogliono non vogliono uscire, non vogliono camminare. È un segno di che? Di che cosa quello? Che sono, insomma, sono stanchi, quindi non li portiamo perché c'è il rischio che ci lasciano a metà strada, no? Certo, sì. Allora, poveri, se il cavallo non vuole andare avanti, si rischia di rimanere lì, no? Certo, sì. Quindi, perciò noi, una cosa che posso consigliare pure agli ascoltatori, sì, è di usare la macchina. Sì, la macchina mi sa che è meglio, no? Sì. E i cavalli, beh... Insomma, sono cosa del passato. Quello pure. Sì, sì, ma con alimento, diciamo, un po' d'acqua, si ricoverano, no? Loro. Sì, si sentono bene, poi anche nel portarli anche dallo psicologo se necessario, no? Bene, lo ringraziamo signore e spero che si riposi questa notte e che abbia una bella giornata. Grazie, grazie mille. Grazie a lei. E torniamo con lo studio. Bene, grazie Beatrice. Grazie Beatrice. Grazie per il tuo lavoro. È stato prezioso veramente il lavoro che hai fatto. Molto carine le opinioni delle persone di Castronuovo di Sant'Andrea. Sì, provincia di Potenza. Bene, quindi a proposito di fortuna e di sfortuna, ascoltiamo una canzone. Una canzone, Ragazzo Fortunato. Appunto. Di Giovanotti. Scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui dopo aver ascoltato Ragazzo Fortunato di Jovanotti, mi dispiace ma siamo arrivati alla fine del nostro programma. Vi salutiamo. Grazie di essere lì, di ascoltarci. Anche quelli che hanno lavorato con noi e ora sono dovuti andare via, però bene, salutiamo anche loro, quelli che hanno iniziato la puntata di oggi con noi. Sì, come abbiamo visto oggi, la sfortuna c'è dappertutto. Sì, anche ci è successo a noi. Sì, sì, infatti bene, adesso siamo rimasti solo noi tre e poi spegniamo le luci di questo studio, chiudiamo tutto e per non lasciare nessuno qua dentro. Bene, grazie a tutti, vi salutiamo e speriamo di risentirci la prossima puntata di Sciogli il Nudo, che sarà la numero meno 3. Ok, ciao. Ciao. Che lingua che ti pari, che strano che ti esprimi, bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra mai. Suona trombone, vai fino al cuore, bom bom bom, bom trombon, bom bom bom, bom sassofon. Ai ai, dite come far, ha bisogno un traduttore per spiegarle il suo amore. Ai ai, dite come far, ci vorrebbe un poeta per tradurre le parole. Ehi già, oi già già. Capisce? Oh bella bella, capisci parole? L'amore! Ai che serenata, ai mia innamorata, c'è questa canzone che bussa nel tuo cuore. Batte, batte, casa che batte, bon che trombon, bon sassofon, bon che trombon, bon sassofon. Che melodia, che musica d'amore, musica che mangia, che si mangia i parole, parole di amore che diventano armonia, che si cambiano la lingua e tu capisci il suo cuore. Suona col trombone, tagli col violino, mettine di aria, butta dentro quel carino, batti con i piatti, con rullante la gran cassa, il ritmo dell'amore senza lingua né padrone. Ai ai, dite come far, ha bisogno un traduttore per spiegarle il suo amore. Ai ai, come fai, ci vorrebbe qui Baglioni per tradurre le parole. Ai, ma lei sa come fai, ha imparato la sua lingua, è il linguaggio dell'amore. Ai, ma lei sa come fai, preferisce i tromboni alle canzoni di Baglioni.